Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti voi in contatto con Radio 24 dal Groove Master Studio Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi e buonasera anche a Silvia Barba e Francesco Tromba. Ciao Gegè, ciao a tutti, buonasera. Ciao Silvia. Ciao. Che è successo? È un dramma. No, ciao no. Tromba, un ciao come se avessi passato un guaio oggi. No, non ho passato nessun guaio. Mi saluti, ciao, poi non devi salutare me, saluta i tuoi affezionati radioascoltatori che ormai stanno aumentando di settimana in settimana, lo sai, no? Ciao a tutti, buonasera. Ecco, vedi, già sta venendo un tono quasi radiofonico. Comunque siamo pronti qui dal Groove Master Studio questa sera per presentarvi tantissime novità e non vorrei perdere tempo perché adesso proprio vorrei partire raccontandovi le vicende ultime di un mio amico. Sto parlando di un grandissimo musicista italiano, eccellente pianista, che dire, lo conosco da più di 30 anni. Eh sì, perché eravamo proprio dei ragazzini insieme e insieme partecipammo a quello che è ricordato come il primo album in studio di Roberto Gatto e quindi il nostro amico Antonio Faraò, perché partecipammo insieme a quella produzione di Roberto Gatto e Faraò era presente come pianista e anche come compositore perché aveva realizzato per Roberto un brano. Fatto sta che Antonio Faraò negli ultimi 30 anni ha guadagnato una posizione importante fra i pianisti a livello in ambito internazionale perché è dotato di una grandissima tecnica, una grandissima energia che mette dietro al suo pianoforte, una bella creatività e fra i contemporanei è uno dei più accreditati. Che ne pensate di Antonio Faraò come pianista? Bravissimo, tra l'altro ha avuto l'intuizione di trasferirsi a Parigi dove l'ambiente è molto più internazionale e ha fatto sì che lui diventasse davvero uno dei migliori pianisti europei. Ma perché? Perché se ne devono andare fuori? Perché? Perché a perché Parigi c'è un sono bel fermento. Sono più reattivi nei confronti della musica e anche più rispetto nei confronti dei musicisti, no? Sì, c'è più cura, più attenzione in generale. Noi abbiamo realizzato una puntata a variazioni sul tema che parlava proprio di questo, no? Sì. Del lavoro del musicista qualcuno se l'è anche presa perché non aveva capito l'ironia, è vero Tromba? A volte l'ironia non è comprensibile a tutti. È vero, ma in questo caso Faraò dimostra di avere anche un senso dell'umorismo, perché io interpreto così anche questa scelta per questo album intitolato Eclectic, perché Antonio piace tutta la musica, un po' come a noi, è senz'altro un eccellente pianista di jazz, ma si è formato facendo musica classica e ascolta di tutto. E in questo album ci fa ascoltare di tutto e sorprende anche questa collaborazione ai vertici dell'hip hop internazionale, perché chi chiama per realizzare per Eclectic un brano intitolato News From chiama? Niente meno che Snoop Dogg. Snoop Dogg. Avranno cenato insieme? Beh, penso di sì. Ma penso proprio di no. Ma figurati se Snoop Dogg si muove da Los Angeles, dalla sua reggia e stacca le mani dalla PlayStation. Perché... Avranno fumato insieme? Ma no, ma figurati, Antonio è uno sportivo, non fuma neanche. Io credo che sia stata una collaborazione un po' come avvenne con Robert Glasper, che mi raccontò che mandò il brano a Snoop Dogg e Snoop Dogg realizzò quelle famose 8 battute. Qui però fa qualcosa di più, sono più di 8 battute che Snoop Dogg concede ad Antonio Faraò, che coinvolge per questo brano anche uno dei migliori cantanti della nuova generazione italiana, che è il mio amico Walter Ricci. Esatto. Ecco, allora Walter Ricci, Snoop Dogg, fa ridere questa cosa, e Antonio Faraò per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Sì, no, lo voglio ripetere perché magari il messaggio non è arrivato chiaro. è una produzione di Antonio Faraò, pianista italiano, ormai residente a Parigi, forse trascorre più tempo a Parigi che nella sua Milano, con Antonio Faraò per questo album intitolato Eclectic. Qui la partecipazione di Snoop Dogg, ladies and gentlemen, e il nostro Walter Ricci, anche lui formidabile cantante. Poi nell'album vanno a completare il percorso sonoro di Antonio Faraò musicisti come Marcus Miller, Birelli Lagrène, Manucace e tanti altri. Quindi da non perdere Eclectic per la Warner, l'album, tra l'altro questo è il singolo, sarà pubblicato l'album a breve. Il 3 marzo. Invece c'è un artista che al nostro tromba piace tantissimo. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Vuyo Sotache. Ecco, Vuyo Sotache. L'hai scelta per il nome? No. No, devo dire gliel'ho suggerito io. Brava Silvia. Ho visto questo ragazzo un po' mingherlino su Instagram che veniva pubblicato da vari altri colleghi e ho detto tromba. Ho sguinzagliato il tromba per cercare le sue produzioni e lui ha tirato fuori questo bel lavoro. Bel lavoro. In realtà non ha pubblicato nulla di, cioè nessun disco, solo questo singolo si trova in giro. Poi tanti live, tante apparizioni live, tante esibizioni anche su YouTube. Sonorità, suono, dove ci porta in giro per il mondo? Beh, lui è sudafricano. Ecco, allora mi sembra importante questa informazione perché la musica che viene fuori è frutto di quella tradizione. Esatto, il brano si intitola, non so se la pronuncia è esatta, Madlamini. Vuyo Sotache al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E ci siamo spostati dal Sudafrica di Vuyo Sotache a Cuba, sì, perché Daimé Arosena, anche se credo sia ormai quasi residente a Londra perché è prodotta da Giles Peterson, è comunque cubana puro sangue. Che talento per questa vocalist che qui ci propone il nuovo singolo che anticipa senz'altro una nuova pubblicazione, brano intitolato Mambo Namà. Mi piace tantissimo, mi muove. Sì, il nuovo album uscirà il 10 di marzo e si intitola Cubafonia, ancora dedicato ovviamente alle sonorità cubane. Cubafonia o Cubafonia? Cubafonia forse, no? Allora, Giles Peterson ha come sempre l'occhio lungo e non si è lasciato sfuggire il talento di Daimé Arosena e c'è anche un gradito ritorno direttamente dal Brasile di un grande maestro della musica brasiliana contemporanea. Ecco, non è fra i più conosciuti, fra i grandi maestri brasiliani, ma è molto amato dai musicisti e anche dai musicisti contemporanei, proprio perché la sua musica ha sempre avuto una visione super moderna. Bravo Francesco. Si chiama Arthur Verocai, ovvero? Sì, e tra l'altro lui ha recentemente anche collaborato con James Wu, l'abbiamo anche ascoltato qui al soundcheck, che è questo appunto room producer che in realtà parte come un visionario DJ, della musica, sì, abbastanza folle possiamo dire. E invece Arthur Verocai è un veterano e veramente ha prodotto ancora una volta un gran disco. Sì, un gran disco, e apre proprio con il brano che dà il titolo a questo album, Novo do Urubu. L'Urubu lo conoscete, no? È quell'uccellaccio nero gigantesco che volteggia sul pan di zucchero. Ah, non lo sapevo. No, lei è un uccellaccio nero. L'Urubu, anche Antonio Carlos Jobim ha realizzato uno dei dischi più belli, forse fra i meno famosi della sua discografia, intitolato Urubu. Comunque questo è Arthur Verocai. Noi vi raccomandiamo questo album, molto ben realizzato, molto intelligente. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E la voce di un veterano come Tony Bennett continua a brillare qui con Diana Krall. Hanno già collaborato insieme, ma si ritrovano sullo stesso palco proprio per festeggiare i 90 anni di Tony Bennett con un album dal vivo. Il brano I've Got the World on a String, e Tony Bennett si presenta quindi di fronte ai suoi appassionati sostenitori con una comitiva incredibile. L'album dal vivo è presente in tutte le classifiche discografiche classifiche di iTunes per il reparto jazz in giro per il mondo. Anche in Italia è stato nei primi posti della classifica, perché Tony Bennett continua a essere un musicista molto amato. E poi è bellissima questa cosa che a 90 anni continua a fare concerti con l'energia di un tempo. Devo dire che la cosa che stupisce di più, perché sta in giro per tutto il mondo, non si ferma un attimo, finisce un tour, produce un disco, ne promuove un altro, insomma è un personaggio davvero con molta energia. Sì, eclettico anche lui, come il disco di Antonio Faraò, perché anche per questo album dal vivo coinvolge artisti di vari ambienti sonori. Sì, infatti la cosa più bella di Tony Bennett è che comunque anche a 90 anni riesce a collaborare con giovanissimi, sembra tutto così naturale, sembra quasi inverosimile. Allora, visto che abbiamo ascoltato un live e stiamo per chiudere, direi di restare in questo tipo di atmosfera e di spostarci a Berlino, perché a Berlino il nostro amato Gregory Porter ha tenuto forse uno dei concerti più importanti della sua carriera, e infatti è stato realizzato anche un album dal vivo, un album doppio, dove Gregory Porter propone tutto il suo repertorio originale, e fra i brani anche la famosa Be Good, The Lion's Song, che poi è il primo brano di successo di Gregory Porter. Sì, si può anche vedere questo concerto, perché è stato realizzato anche un DVD, potrete acquistarlo anche su internet. E chissà se questa sera, questa notte, vincerà il Grammy Award, è Gregory vero, Porter. È vero, perché si ritrova nella categoria del jazz vocale. Infatti noi siamo in trepida... Tifiamo un po' per lui. Anche per lui, siamo in trepida attesa, e adesso andiamo a cena e poi seguiremo... Quindi rimaniamo qui a dormire. Vediamo con te i Grammy Award. Dormire no, devo... Vabbè, stanotte... C'ho una branda... Faccio una maratona. Del 15-18 per tromba, e invece do la suite presidenziale a... Ma grazie mille, vedi la gentilezza, tromba. Va bene, io ma dormo col cane. Trombe abituato. Grazie a tutti voi, Gregory Porter con Be Good. Ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15 qui su Radio 24. Ciao Giorgia Telesforo, ciao a tutti. Buona serata.